Perfetto giorno di Simone Spezia. Europa, Juncker vuole un ministro delle finanze unico, il vento è girato, la ripresa favorirà l'integrazione, dice. 16enne scomparsa a Lecce, indagato il fidanzato, la madre di lei lo aveva segnalato qualche mese fa per comportamento violento. La legge sulla cittadinanza si arena per la seconda volta in Senato. MDP dice da oggi i nostri voti non sono scontati. Juve asfaltata dal Barça, Roma che si salva con l'Atletico Madrid e stasera tocca al Napoli in Champions contro lo Shakhtar Donetsk. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. 349-238-6666 come sempre per i vostri sms e per i messaggi su WhatsApp, e c'è anche la pagina Facebook di Radio 24, così come la nostra, dalle quali andiamo anche in diretta video, e se volete, come sempre, potete commentare anche là, leggeremo i vostri commenti, le vostre idee e ovviamente, se riterremo opportuno, se le riterremo pertinenti, li leggeremo anche in onda. Iniziamo dunque questa puntata parlando di Europa e parlando del discorso sullo Stato dell'Unione di Jean-Claude Juncker. Sergio Nava, buongiorno. Buongiorno, è un'Europa col vento in poppa quella che vede il Presidente della Commissione Juncker nel discorso sullo Stato dell'Unione tenutosi questa mattina all'Europarlamento di Strasburgo. Sentiamo subito un passaggio del suo intervento. The wind is back in Europe's sails. We have now... L'intervento del Presidente della Commissione ha toccato un ventaglio molto ampio di temi, a partire da quello economico. Siamo al quinto anno di crescita, ha detto Juncker, rivendicando che la crescita adesso è vicina a quella degli Stati Uniti. Sempre in tema di economia, Juncker ha appoggiato l'idea di un fondo monetario europeo da sviluppare sulle fondamenta dell'attuale ESM e soprattutto di un ministro europeo dell'economia e delle finanze per promuovere le riforme strutturali negli Stati membri e coordinare i momenti in cui uno Stato membro rischia la recessione o l'instabilità finanziaria. Spazio anche a un altro tema di attualità. Le dispute commerciali, in primis con la Cina. L'Europa ha le porte aperte al commercio, ma ci deve essere reciprocità. La conclusione, insomma, va nel senso tracciato da Emmanuel Macron. Dobbiamo proteggere i nostri interessi, dice Juncker. Ampio spazio alla questione migranti. Non si può parlare di migrazione senza pagare tributo all'Italia per la sua generosità nel Mediterraneo. L'Italia ha salvato l'onore dell'Europa, dice Juncker. A questo tributo ha risposto il premier Gentiloni ringraziandolo. Il presidente della commissione ha chiesto di mettere fine con la massima urgenza alle condizioni di accoglienza in Libia dei migranti, che dice sono scandalose, e ha escluso la futura adesione della Turchia all'Unione Europea almeno finché mancherà il rispetto dello Stato di diritto. Tra le novità, la proposta di un presidente unico dell'Unione Europea che raggruppi le funzioni incarnate attualmente dallo stesso Juncker e da Tusk, e anche tra gli altri temi le divisioni est-ovest, il Dieselgate, la Brexit, il terrorismo. Juncker ha poi dovuto condensare in breve la sua replica ai deputati a causa di una sciatica che lo sta perseguitando. È tutto. E grazie a Sergio Nava per questo aggiornamento anche sulla sciatica di Jean-Claude Juncker. Veniamo alla cronaca con la scomparsa di una sedicenne a Lecce e i sospetti sul fidanzato. È indagato per omicidio volontario il fidanzato 17enne di Noemi, la 16enne scomparsa da Specchia in provincia di Lecce il 3 settembre scorso. L'iscrizione del ragazzo nel registro degli indagati è stata disposta dalla procura per i minorenni di Lecce in seguito alle dichiarazioni rese dal ragazzo ai carabinieri. Più volte interrogato dopo la scomparsa di Noemi, il fidanzatino ha ripetuto sempre la stessa versione, ovvero di aver incontrato la ragazza all'alba del 3 settembre, di averla accompagnata nei pressi del campo sportivo di Alessano e di averla lasciata lì, ma diversi particolari non quadrano. È stata messa intanto sotto sequestro l'auto a bordo della quale la ragazza è stata vista per l'ultima volta proprio in compagnia del fidanzato. Dagli accertamenti fatti a bordo non risultano né tracce di sangue né segni di un evento violento. In prefettura la conferenza stampa dei familiari di Noemi, che hanno sempre ostacolato la relazione della figlia. Qualche tempo fa la mamma della ragazza aveva segnalato il 17enne alla magistratura minorile per il suo comportamento violento. E per questo motivo si erano accesi forti contrasti tra le due famiglie. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Andiamo a Livorno adesso, nel giorno dei funerali. È ora di fare chiarezza, dice il sindaco Nogarin dopo aver letto le dichiarazioni del tecnico del centro funzionale di monitoraggio della regione toscana Enzo Di Caro, secondo il quale fin dalla sera di sabato Comune e Protezione Civile di Livorno furono allertati dalla regione, con aggiornamenti ogni due ore sempre più allarmanti. Abbiamo chiesto un report, dice quindi Nogarin, sulle comunicazioni intercorse tra la Protezione Civile Comunale e tutti gli organismi tecnici della regione. La procura intanto ha aperto un fascicolo per disastro colposo, mentre nelle strade si continua a lavorare e ci sono anche paracadutisti e genieri con le loro competenze in ambito di protezione civile. Il capitano Attilio Trovato. Interveniamo a seguito della richiesta della prefettura. I ragazzi del 187esimo stanno svuotando cantine, case, dalle macerie, mentre i ragazzi del Genio hanno ripristinato una strada che aveva isolato circa 300 persone. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ancora alla cronaca, il giudice per l'udienza preliminare Roberta Bossi ha condannato a 6 anni Akhter Tarek, algerino, 34 anni, accusato con altre 3 persone di far parte di una cellula jihadista operante tra la Liguria e Brescia. Si tratta del primo processo per terrorismo islamico celebrato in Liguria. Stessa pena per Osameldin Abdelhakim, egiziano di 43 anni, mentre il fratello Antar, 36, è stato condannato a 5. Veniamo alle vicende politiche che ci parlano soprattutto dello Ius Soli. È su un binario morto il disegno di legge sulla cittadinanza agli stranieri nati in Italia. Il provvedimento scompare dal calendario di Palazzo Madama e difficilmente potrà vedere la luce entro la fine della legislatura, anche se il ministro per i rapporti con il Parlamento Finocchiaro assicura che l'attenzione del governo sul tema resta massima. Ma del resto, ad ammettere la sconfitta è lo stesso PD. Non ci sono i numeri per andare avanti, ha detto il capogruppo al Senato Luigi Zanda. Di fatto, a pesare la contrarietà di Alternativa Popolare e la necessità di evitare turbamenti interni alla maggioranza in vista dell'approvazione a fine mese del DEF, che richiede un voto a maggioranza assoluta, una quota che difficilmente a Palazzo Madama si è raggiunta negli ultimi tempi. Esultano le opposizioni, da Forza Italia e Grillini, per i quali una valutazione su una legge così importante andrebbe fatta dai cittadini tramite referendum, mentre protestano Sinistra Italiana e MDP favorevoli al provvedimento. È una resa culturale, denuncia Roberto Speranza, mentre da Torre minaccia: da oggi i nostri voti non saranno più scontati. Se dopo lo stop allo Ius Soli salta anche la legge elettorale, non reggeremo il moccolo all'accordo tra Renzi e Alfano. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Sullo Ius Soli Renzi non ha avuto coraggio, dice l'onorevole del Partito Democratico Khalid Chaouki al microfono di Valentina Furlanetto. Io credo che il Partito Democratico al Senato abbia sbagliato a inviare per l'ennesima volta questa discussione. Spero e vorrei che il mio Partito Democratico non facesse calcoli di questo genere. Anche Renzi, leader del suo partito, sembra pensare che non sia il momento giusto. Penso che debba avere un po' più coraggio, come l'ho avuto in altri casi, come le leggi importanti che abbiamo fatto contro, appunto, per le unioni civili, altre battaglie che non erano popolari ma che siamo riusciti ad affermare. Anche su questo tema deve capire, e sarà anche nostro compito spiegarglielo e convincerlo, altrimenti i rischi a seguito di questa superficiale sottovalutazione di questa riforma rischiano di essere molto alti, perché parliamo davvero di una generazione che è stanca di essere lasciata ai margini della società. Che tipo di rischi? Ma quelli della marginazione sociale, che già viviamo in alcune periferie. Ma è una cittadinanza che può rimediare all'inclusione sociale, non sono i servizi, la cura delle periferie. La cittadinanza non è il rimedio definitivo, ma è il punto di partenza per aprire un reale coinvolgimento e condivisione da parte di questi ragazzi verso quelli che è l'Italia e il loro futuro in Italia. Come avete sentito, le vicende dello Ius Soli strettamente intrecciate, almeno dal punto di vista parlamentare, alle sorti della manovra, della legge di stabilità. Proprio sulla legge di stabilità interviene questa mattina il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia. Dice: di fronte a segnali positivi sul fronte della crescita, ma con una ripresa ancora non strutturale, non possiamo consentirci errori nella legge di bilancio, né per le scelte a medio termine in un piano di legislatura. In questa fase significherebbe, dice, fare non uno ma 3 passi indietro, ed una volta persi i pezzi d'industria non è facile recuperare. Così Boccia, mentre arriva una notizia interessante sempre dal lato dei consumi e quindi della ripresa da parte di Ismea. Dopo 5 anni di segno negativo, nel primo semestre del 2017 la spesa degli italiani per l'acquisto di beni alimentari è cresciuta del 2,5%, sostenuta sia dai prodotti confezionati più 3,2%, sia dai freschi più 1,2%. 1,1%. Andiamo a chiudere questa prima parte andando allo sport, iniziando dal calcio, in una giornata che vedrà impegnato il Napoli, mentre ieri, la giornata di ieri, è stata la giornata della Juve, asfaltata dal Barcellona, e della Roma che ha faticato, però ha ottenuto alla fine uno 0-0 con l'Atletico Madrid. Carlo Genta, ciao Carlo. Ciao Simone, asfaltata mi sembra un termine interessante e corretto. 3-0 vuol dire che la Juve è stata asfaltata. Dopo un primo tempo di resistenza, poi si è piegata a Messi, che ha fatto una specie di capolavoro, poi Rakitic, poi Messi di nuovo. Insomma, ieri dicevamo la Juventus può anche perdere, l'importante è non prendere degli schiaffoni che potrebbero minare la fiducia per il futuro. Gli schiaffoni li ha presi al Camp Nou, e quindi ci sono molte incertezze in generale intorno a questa Juventus, incertezze che crescono. Adesso è facile dire manca Bonucci, una difesa che comincia a prendere tanti gol, però credo che l'analisi dovrebbe essere più approfondita. Dybala stecca nel confronto con appunto il suo specchio Lionel Messi, e questo 3-0 non, ovviamente non compromette nulla, era la prima partita del girone, però è un diciamo così exit poll non positivo. La Roma 0-0 in casa con l'Atletico Madrid, un buon risultato, salvata dalle parate di Alisson. La Roma, è chiaro, l'Atletico Madrid è un avversario serio, è un avversario che ha un palmarès europeo già di tutto rispetto. Tutto sommato un discreto risultato per la Roma, che tornava in Champions League dopo parecchio tempo. E adesso stasera aspettiamo il Napoli, vediamo se esce un tre punti in classifica. Gioca a Kiev contro lo Shakhtar Donetsk, missione non impossibile per il Napoli, e sarebbe un gran colpo invece in prospettiva girone, in prospettiva qualificazione, vincere la partita di questa sera. Questo è quanto è successo ieri sera. Questo per quanto riguarda il calcio. Poi stasera basket, Carlo? Stasera siamo alle porte del paradiso. L'Italia non vince qualcosa di prezioso ormai da molti anni. Atene 2004, medaglia d'argento alle Olimpiadi. Finale persa contro l'Argentina di Ginobili. Sono passati, possiamo fare i conti, moltissimi anni. Stasera giochiamo i quarti di finale contro la Serbia di Saša Đorđević, nostra vecchia conoscenza. Serbia che è medaglia d'argento alle ultime Olimpiadi, quindi è un avversario fortissimo, più forte di noi probabilmente. Però quest'Italia dei peones, della lacrime e sangue, l'ultima Italia di Messina, che come sappiamo è all'ultimo ballo, Last Dance, prima di lasciare la panchina a Romeo Sacchetti. E, insomma, una partita bellissima da vedere, 20-30, sarà qualcosa di, io credo, di emozionante, di eccitante, di così con mille sapori questa sfida dell'Italia, e la aspettiamo tutti, ma con grande fiducia. Non siamo favoriti, siamo sfavoriti, quindi un ruolo che per noi italiani va benissimo, e sarà una partita da vedere, da gustare secondo dopo secondo. Allora grazie Carlo, ti ritroviamo come sempre alle 14 in tutti i convocati. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sulle strade, ci ritroviamo subito dopo. Andremo a parlare con Clemente Mastella, che è stato assolto ieri, come sapete, era stato indagato, e lo ricorderete, per delle vicende che hanno a che fare con delle nomine di primari in Campania. Era stato indagato 9 anni fa e la sua indagine aveva portato alla caduta del governo Prodi, quindi un evento politico molto importante, e parleremo proprio con Mastella. Torneremo su Livorno per parlare con chi si occupa del consorzio di bonifica, con un ingegnere che ci racconterà un po' questa vicenda degli scolmatoi che sono stati costruiti, ma evidentemente non sono bastati a contenere l'esondazione del fiume. E poi torneremo a parlare anche di OGM, perché c'è un'importante sentenza della Corte di Giustizia Europea, in parte sorpassata dalla legge che poi abbiamo approvato sugli organismi geneticamente modificati, ma cambia un concetto fondamentale, che è il cosiddetto principio di precauzione, cioè dice la Corte di Giustizia, finché non è provato che fanno male, possono essere coltivati. Traffico a tra poco. Cosa ti preparo? La tavola, prendo le pizze Roncadin. Pizze Roncadin, nel banco freezer. Vi presenta... Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato di Europa e del discorso di Juncker, che dice di volere un ministro delle finanze unico, della sedicenne scomparsa a Lecce, indagato il fidanzato, della legge sulla cittadinanza che si è arenata per la seconda volta in Senato e della giornata di Champions League, oltre che della partita di questa sera, quella del Napoli contro lo Shakhtar Donetsk e quella dell'Italia contro la Serbia nel basket. Adesso iniziamo il nostro giro per l'Italia, che ci porta innanzitutto a Benevento, da Clemente Mastella, che ne è il sindaco. Mastella, buongiorno, benvenuto, buongiorno, e bentornato ai nostri... buongiorno, grazie. Bentornato ai nostri microfoni. Grazie, allora, grazie. L'assoluzione di ieri, assoluzione arrivata dopo 9 anni, per la verità dopo 11 anni. Dal 2006. I fatti risalgono a quello. Quello che ci preme da questo punto di vista, sì, sono le notizie che sono arrivate, che di fatto, Mastella, oltre ad aver chiaramente creato un grave problema a lei, hanno anche cambiato in parte la storia politica di questo paese, no? Beh, purtroppo è così, la constatazione è questa. Infatti, diciamo, io ero ministro della giustizia, non ero uscito al ministero e non è che sono stato riassunto al ministero, avevo un partito, quasi 1 milione di voti, ed è disperso il mio partito. La mia famiglia massacrata, non c'è stato nessun membro della famiglia che in quegli anni non sia stato sottoposto al giudizio della magistratura, anche i miei figli, quindi non sono stati risparmiati in maniera un po' ingiusta e ingenerosa. Magari una volta c'era un finto pentito, un pentito farabutto, come nel caso di mio figlio, il primo, che si diceva che la Camorra aveva regalato una macchina quando era ministro della giustizia, pensi un po', fino anche queste cose qua. Mia moglie è stata 9 mesi fuori e non poteva rientrare in Campania, e 2 mesi agli arresti domiciliari, e tutto questo non è che ci viene ripagato, ci sarà mai ripagato. Però detto questo, lungi da me fare, aprire vertenza o essere in contrasto, io ritengo che bisogna umanizzare la giustizia, bisogna che finalmente la politica scopra il suo ruolo, che è quello di lavorare in maniera seria per fabbricare un mondo della giustizia diversa. Bisogna lavorare tra politica, magistrati, avvocati, perché poi chi è penalizzato è il cittadino. In questo caso il cittadino è la famiglia Mastella, ma tante altre famiglie che non sono in grado magari di avere, come oggi, un minimo di riscontro mediatico, come è capitato a me, e subiscono tante. Sì, gente che magari viene assolta come lei a 10 anni di distanza, solo che dato che non si chiama Clemente Mastella, non interviene in diretta in trasmissioni come queste, non parla, non ha l'opportunità di raccontare, no, che cosa ha passato. Sì, è così, è così. Però è anche vero che proprio perché io mi chiamo Mastella ho avuto quello che ho avuto. Anche questa è la differenza. E il contraltare dall'altra parte. Certo. Ascolti, Mastella, è un po' un esempio quello che le è avvenuto, no? Di un certo cortocircuito che c'è stato e che va avanti da tempo, dai tempi di Tangentopoli, tra il famoso cortocircuito mediatico giudiziario, del quale si è un po' pentito anche Di Pietro nei giorni scorsi, che era suo collega di governo in quegli anni. Sì, difatti questa sua manifestazione di pentimento, diciamo, Di Pietro me lo disse anche quando mi fermò per strada qualche tempo fa, scese una macchinuccia un signore, non avevo capito chi fosse, poi ho reso conto che era lui, dicendo che sono sbagliato tutto, anche rispetto agli attacchi fatti a te, eccetera, sono stati ingiusti, e quindi perché abbiamo esagerato. E sì, anche lui credo che ormai sia, non voglio dire pentito, però certamente si è ricreduto di atteggiamenti che, quando sono atteggiamenti, diciamo, populisti, anche il populismo giudiziario francamente non agevolano, non aiutano nessuno. Mastella, e poi c'è la lunghezza. Sì. La lunghezza. Lei che è stato anche ministro di ministro della giustizia, no? La lunghezza. 11 Guardi, anni. Avevo proposto se fosse rimasto. Io lavoravo ad un'ipotesi di questo genere. 2 anni, tranne giustifica, oppure perdi il posto di lavoro fino anche del giudice, 2 anni in primo grado, 2 anni in secondo e 1 anno in Cassazione. E sai, il problema dei residui, di quello che doveva essere smaltito, e questo si rubricava in un certo modo, si vedeva che fare, però questa è la giustizia nuova, cioè 5 anni non sono esagerati, ma 11 anni come nel mio caso e nel caso di tanti altri sono un'esagerazione indebita che massacra le persone. Ultima domanda, oggi ha detto tra le altre cose che le fanno già la corte per candidarsi, anche se ha deciso di rimanere sindaco. Sì. Ma chi è stato? Chi la vuole candidare? Questo è un minimo di... Non si dice. Di, no, il peccato, il peccato, ma non il peccatore. Non il peccatore. Ok. Grazie Clemente Bastella. Grazie. In bocca al lupo per il suo lavoro da sindaco di Benevento, e noi veniamo alle vicende di Livorno invece. Nelle scorse ore tanto ci siamo occupati dei sistemi di allerta e, come avete sentito, le polemiche si concentrano ancora su quello, con il sindaco di Livorno, Filippo Nogarin, che ha avviato delle verifiche da questo punto di vista per vedere cosa funziona e cosa non funziona. Noi ne abbiamo parlato nei giorni scorsi con il sindaco di Pisa, Pisa che ha allestito un sistema di allerta un po' diverso, e con la regione Liguria che ne ha ancora un altro, ma a quanto pare in qualche modo più efficaci di quello di Livorno. Nogarin avvierà le sue verifiche e vedrà come modificare questo sistema di allerta. Nel frattempo c'è un altro tema, che è quello dei lavori. I lavori che, viene detto in queste ore, devono essere fatti per sistemare gli argini dei fiumi, e non solo gli argini, realizzare gli scolmatoi in maniera che nel momento nel quale i fiumi esondano abbiano un luogo dove andare e non invadano le abitazioni. E si è detto anche in queste ore, lo abbiamo sentito soprattutto da parte del governo, si sono sentite frasi del tipo: bene, i soldi ci sono, li abbiamo messi, voi spendeteli. La realtà è che Livorno questi soldi li aveva già spesi, ed esattamente là dove i fiumi hanno fatto più danni, e gli scolmatoi li aveva realizzati. Siamo in linea con l'ingegnere Roberto Pandolfi, che è del consorzio di bonifica 5 Toscana Costa. Buongiorno ingegnere, benvenuto. Buongiorno. Lavori fatti dunque, no? A tutti gli effetti, gli scolmatoi là ci sono. Sì, ci sono, sono stati realizzati preventivamente all'espansione urbanistica di un nuovo centro, ci sono stati consegnati dal comune di Livorno, che era l'ente attuatore in questo caso, e sono già da 2 anni in manutenzione ordinaria da parte nostra. E questi scolmatoi che problema hanno? Sono troppo piccoli? No, non è che sono troppo piccoli, vede, quando si progettano le opere idrauliche, dalla normativa nazionale via giù dicendo anche quella regionale, ci sono dei limiti di progettazione, degli ordini di grandezza di progettazione che prevedono che le opere idrauliche vengano progettate con tempi di ritorno pari a 200 anni, cioè si ipotizza che un evento possa avvenire una volta ogni 200 anni, quindi quello è l'evento massimo per cui si fa la progettazione. Chiaramente in questo caso abbiamo avuto un evento completamente diverso, che si stima, ancora non sono arrivati i dati ufficiali, ma a vedere i pluviometri e a fare un attimo due calcoli così in fretta e furia, si stiamo parlando di un evento una volta ogni 500 anni, quindi più del doppio di intensità, di altezza di pioggia, e quindi chiaramente è entrato in collasso tutto. Cioè, l'evento che abbiamo visto a Livorno è un evento che avviene una volta ogni mezzo millennio mediamente? Statisticamente sì, potrebbe avvenire 2 volte di seguito e poi non avvenire più per un millennio, cioè chiaramente sì, è chiaro, no, questo è ovvio. Quindi è tutta una questione di accettazione del rischio, ma questo vale per qualunque tipo di struttura, non solo per l'idraulica. Quindi chiaramente oltre un certo limite è difficile prevedere quale può essere l'evento. Le casse, ora io non ho i dati sotto, però se sono per un evento di 200 anni, come ha dichiarato anche stamattina il consulente professor Pagliare all'Università di Pisa, conosciamo benissimo il progetto dato che abbiamo noi in manutenzione, stiamo parlando di altezze di pioggia di 150 mm, sono caduti 260 nello stesso periodo di tempo, capisce bene che siamo 100 mm in su, quindi significa una lama d'acqua e 10 cm su tutto il bacino idrografico. Variati chilometri quadri. Sì, chiaramente, quindi un riempimento molto maggiore, e a quel punto ovviamente l'esondazione, l'invasione delle abitazioni, delle strade e così via, no? Senta, sì, però io, guardi, non è per qua non parlerei di esondazione solamente dei corsi d'acqua, qua è andato proprio in crisi tutto il sistema del reticolo minore, hanno cominciato a laminare tutte le parti boschive a monte, trascinando giù tutto quello che hanno trovato. Quindi può capire bene che una lama di 10 cm, inizialmente 10 cm, man mano che viene giù diventa 20, poi 30, poi 40. Quindi siamo arrivati a situazioni addirittura che il corso d'acqua non ha neanche esondato, era pieno e si è fatto un po' per lama, d'acqua. Scusi Pandolfi, sì. Per capire con i nostri ascoltatori, per lama intende superficie d'acqua, che cosa intende? Sì, superficie d'acqua. Sì, una superficie d'acqua di altezza d'acqua di 10 cm che è arrivata scendendo da monte, certo, fino addirittura a 40 cm. Quindi esondano meno i fiumi o i torrenti interrati da una parte, scende giù l'acqua da monte dall'altra e succede quello che succede. Certo. Questo... Ovviamente, lei consideri che con un'altezza superiore ai 50 centimetri le macchine, che alla fine sono delle scatole vuote, galleggiano e vengono trasportate via anche sulla strada ordinaria. La ringrazio, grazie all'ingegner Roberto Pandolfi del Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa per essere stato con noi. Adesso ci fermiamo, andiamo a sentire come sempre cosa succede sui mercati e poi ci ritroviamo e parliamo, tra le altre cose, di organismi geneticamente modificati. Vi ricorderete, abbiamo ospitato spesso in passato anche qua a Radio 24 Giorgio Fidenato, un agricoltore di Pordenone, un agricoltore insomma, il presidente dell'Associazione Agricoltori Federati della provincia di Pordenone, un liberale di quelli tosti, che aveva deciso di coltivare nel suo campo del mais geneticamente modificato. Aveva scatenato molte polemiche, aveva scatenato la rabbia delle associazioni anti-OGM che erano andate nel suo campo, in parte gliel'avevano distrutto e gliel'avevano rovinato. La vicenda è andata per vie giudiziarie finché è arrivata la Corte di Giustizia Europea e che alla fine gli ha dato ragione, gli ha detto: Fidenato, lei poteva coltivare. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia, sempre 349-238-6666 per i vostri sms, per i messaggi su WhatsApp e la nostra pagina Facebook dalla quale andiamo anche in diretta video. I nostri titoli. In Europa Juncker vuole un ministro delle finanze unico, il vento è girato, dice la ripresa favorirà l'integrazione. Una sedicenne scomparsa a Lecce è indagato il fidanzato, la madre di lei lo aveva segnalato qualche mese fa per comportamento violento. La legge sulla cittadinanza si arena per la seconda volta in Senato, MDP dice da oggi i nostri voti non sono scontati. La Juve perde 3-0 dal Barça, la Roma si salva con l'Atletico Madrid, stasera tocca al Napoli in Champions contro lo Shakhtar Donetsk, la borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Effetto Giorno. Ed eccoci di nuovo, qualche ascoltatore ci chiede dettagli a proposito innanzitutto delle accuse che riguardavano Clemente Mastella che abbiamo ospitato poco fa. All'epoca fu indagato per concussione, falso e concorso esterno in associazione per delinquere, accuse progressivamente cadute e con il... GIP, la procura di Santa Maria Capua Vetere, che scriveva un vero e proprio sistema illecito che lascia francamente basiti per i metodi sfacciatamente irregolari con i quali veniva esercitato. Qualche altro ascoltatore ci chiede come è stato assolto Mastella, con che formule, perché il fatto non costituisce reato e perché il fatto non sussiste, quindi di fatto una soluzione piena per Clemente Mastella. Questo per risolvere qualche dubbio che ci avete inviato. C'è un principio che è piuttosto controverso a dire il vero, che si chiama principio di precauzione. Che cos'è il principio di precauzione? È l'idea secondo la quale non adotti un provvedimento, non, per esempio, non fai coltivare degli organismi geneticamente modificati finché non sei perfettamente sicuro che non facciano male. Sulla base, il principio di precauzione è un principio sul quale ci si è basati molto spesso per quanto riguarda gli OGM, ci si è basati un po' meno su questo principio di precauzione per molte altre cose che sono regolarmente sul mercato. Fatto sta che oggi la Corte di Giustizia Europea, chiamata a decidere sul caso di un agricoltore italiano che spesso è stato ospite qua di Radio 24, che si chiama Giorgio Fidenato e che è di nuovo con noi, buongiorno benvenuto. Buongiorno a lei, a tutti. Buongiorno e benvenuto. Ha di fatto detto che l'applicazione che ha dato l'Italia nel suo caso, che coltivava mais OGM nel suo campo, l'applicazione del principio di precauzione in questo caso è sbagliato, cioè doveva essere lo Stato italiano a spiegare in che modo il mais OGM che lei coltivava faceva male, ho capito bene? Allora, diciamo che la sentenza è un po' più articolata. Qui parliamo delle misure di emergenza nell'ambito del regolamento europeo 1829 del 2003. Questo principio di emergenza è stato introdotto appunto nel regolamento 2023, viaggia sempre nell'ambito del principio di precauzione, perché appunto l'Europa ha deciso dopo il 1992 di prendere a riferimento questo principio di precauzione, però nello stesso momento quindi l'ha applicato soprattutto prima di permettere la commercializzazione di questi prodotti. Questo principio di precauzione ha comportato una lunga serie di esami, di riferimenti scientifici per poterli autorizzare. Poi, sempre nell'ambito del principio di precauzione, dice il diritto europeo, anche se un prodotto è autorizzato, se intervengono studi successivi, prove successive che ne dimostrano la pericolosità, si può ancora vietare la libera circolazione delle merci, okay. In questo caso la semina. Però nel caso dell'OGM la Corte di Giustizia ha finalmente sentenziato, perché questa secondo me è una sentenza storica, non perché riguarda il mio caso, ma perché finalmente dissipa questo connubio, questo dubbio del principio di precauzione. Dice nel caso degli OGM, siccome questi hanno già passato tutta una trafila per essere autorizzato, per poter vietare deve avere un qualcosa di più, cioè deve avere una manifestazione di pericolosità imminente e urgente. Sì. Cosa che l'Italia col decreto del 2013 non ha fatto. Sì, che era un decreto interministeriale. Poi è intervenuta una legge che ha di fatto superato anche questa sentenza della Corte di Giustizia europea. Quindi l'applicabilità alla fine di questa sentenza è dubbia, mi sembra, Fidenato. Beh, no? Intanto mi libera la mia fedina penale, nel senso che io ero sottoposto a 4 procedimenti penali, con questa sentenza tombalmente si verranno tutti archiviati. E che non è male, e che non è male per lei. E che non è male, certo, poi io devo chiedere i danni anche allo Stato italiano perché l'avvocato mi costa, questo è pacifico. Però noi stiamo contestando anche la direttiva europea, perché la direttiva europea a nostro avviso non è rispondente ai trattati europei, perché non è possibile che un mio collega spagnolo possa seminare, io in Italia non posso seminare. Allora, i trattati europei parlano chiari, si chiama restrizione alla libera circolazione dei prodotti, parla chiaro, ci sono pochi motivi per cui si può restringere. Hanno inventato questa direttiva, io la contesto formalmente. Domani faremo una conferenza stampa in cui annunceremo le future battaglie che staremo facendo. Sì, qualche ascoltatore la dice un po' brutale, dice: con l'applicazione piena del principio di precauzione l'uomo non sarebbe mai uscito dalle caverne. E qualche ascoltatore invece pone dei dubbi, Fidenato, sul famoso tema della contaminazione, cioè il problema degli OGM, dice non è non è l'OGM in sé, ma il fatto che il suo campo coltivato possa portare a far sì che diventino OGM anche i campi vicini. Allora, innanzitutto il termine contaminazione è un termine sbagliatissimo. Non c'è nessuna malattia che si propaga, perché il termine contaminazione dà l'idea al consumatore che quando si contamina qualcosa fa del male. Vabbè, no? Insomma, però ci siamo capiti. No, perché sai, quando si usano le parole sono pietre. Ha ragione anche lei. Allora, quindi non diciamo contaminazione, diciamo così. L'idea è che possano diventare OGM anche i campi che OGM non sono. C'è questo rischio o no? Non c'è assolutamente un rischio. L'agricoltura ha sempre conosciuto i problemi di coesistenza, di commistione di diverse culture che portano il deprezzamento economico una rispetto all'altra. L'esempio tipico, classico, è coltivazione di mais giallo e mais bianco affiancate. È chiaro che il carattere giallo, che è dominante, se feconda un ovario del mais bianco, il seme è giallo e c'è un deprezzamento commerciale solamente. Sì. Ma ci sono delle tecniche per evitare la commistione. Sì. Seminare prima rispetto a chi le due varietà, seminare in tempi diversi, mettere classi di maturazione diverse, eccetera, eccetera. Ci sono per delle cui, tecniche agronomiche culturali per evitare la commissione si può fare. Allora, Fidenato, io la ringrazio e aspettiamo notizie sulle successive battaglie giudiziarie. Intanto, prima di chiudere, una piccola storia che però abbiamo trovato curiosa, divertente, visto che siamo nei giorni nei quali ricomincia la scuola. Sabina Fortunati, la dirigente scolastica dell'Istituto Belluzzi da Vinci di Rimini. Buongiorno Fortunati, benvenuta. Buongiorno, grazie. Il tema è il dress code a scuola basta con i ragazzini che arrivano con i jeans strappati, con gli short troppo short, ossia troppo corti, con le minigonne e via dicendo, e sanzioni a chi sgarra. Grandi polemiche. Che... allora, allora Fortunati, che sanzioni date agli studenti che si presentano con un dress code inadeguato? Sono nel regolamento, sono visibili a tutti i genitori, ma non è una questione di sanzioni, bisognerebbe anche vedere un attimo le cose in prospettiva. Quello che stiamo cercando di fare è ridare dignità e decoro a un luogo che è un'istituzione dello Stato. Per cui al di là della sanzione che verrà irrogata qualora proprio ci fosse una maleducazione che continua, perché si va sempre con il buon senso, no? Si cerca di far capire ai ragazzi l'importanza di vestirsi in un certo modo in un contesto. Cioè, se ti presenti per una settimana in costume, canotta, ecco, infradito, la sanzione a un certo punto arriva. Forse qualcosa ci sarà, però sempre anche bisogna tenere presente che le sanzioni non sono, così come il regolamento, frutto della volontà del dirigente. Questa svalutazione del dirigente, che viene indicato sempre come una specie di mostro della situazione, sarebbe il caso terminasse. Il dirigente fa applicare quello che una comunità decide come regola propria, oltre a far applicare anche le norme, ovviamente, in quanto sì, pubblico ufficiale. Sì. Per cui questo regolamento, che è stato approvato da un collegio docenti di oltre 180 persone, sì, e da un consiglio d'istituto che è composto da 19, 8 dei quali sono docenti, 4 genitori e 4 alunni, è espressione di una volontà interna. Mm. Non è l'unica scuola del Riminese, perché basta dare un'occhiata, e non è nemmeno l'unica scuola italiana a fare questo. Guardi, allora vorrei avere più tempo con lei, perché so che poi anche molti genitori ci pensano. Qualche ascoltatore ci scrive: sarebbe meglio le divise, come un tempo si va in divisa a scuola, si evitano anche, per così dire, disuguaglianze, cioè tra quelli che si possono comprare un paio di scarpe da 300 euro e quelli che le comprano da 10 al mercato. Però, come vedete, il tema anima soprattutto i dibattiti dei genitori. Chissà nei gruppi WhatsApp che cosa succede in questo momento. Traffico, Platero, tra poco.